sovrasta la ragione, illuminando l'aspetto, concreta osservazione, il giusto divario, la linea si deforma, l'immagine strana tra l'essere e quello che siamo noi, quello che siamo noi. Errore, illusione, l'idealismo critico risulta il confronto che c'è tra uomo e mondo, in parte scontato dall'oggettività, chiarire il rapporto di chi è vivo e di chi è morto, ma importante, l'impronta morale.